Pronte? Beh, Luca, mormitosi. Luca, mormitosi. Johnny Man, accessi. Johnny Man, mormitosi. Ebbene, ce la facciamo alzarci dal letto anche oggi? Che città, ma sempre di la nevi, tutti dormiti. Luca, lu dormitati, felina, felina. Vittorio, ci sei, oppure le salire stati. E beh, Gio Maria, ci sei, Tore. E beh, dormito sei. Ma se no così? No, non c'è nessuno, ho chiamato poco fa. Ho capito. Poco fa ho chiamato e non ha risposto nessuno. Tutti dormiti sono. Tutti in giro sono. Si stanno facendo la passeggiata, capito? Solo noi siamo casalinghi. E allora a pranzarsi sono andati. E c'è un freddo, questa la dirighetta muri. E lo siro bianco, si vede da te. Tutto bianco, c'è neve anche a tutti i figari. Tutto imbiancato. Anche da ieri. Lì a Itine è tutto bianco. Da ieri. Già ho visto, ieri l'ho visto al televisore, passata, ossieri, tutto imbiancato, tutto neve, ghiaccio. Domani andiamo a sciare, a Cigliari. No, larga Giovani, già mi sto in casa, sto meglio. E allora, stamani in nata le macchine, i nuovi vola, fino a 3 diti di ghiaccio. Addirittura. E allora? Perché ieri sera ha nevicato, sicché poi ieri notte si è pulita l'aria e ha gelato, capito? Un po' di gelo è sceso. Un po' gumbè. Ci sto dicendo sino alle 10 qua sotto le macchine. Qua viene il ghiaccio e la cappotta e sul cofano. Tempo suo. Ma noi ci lamentiamo, ma cosa devono fare quelli che hanno fatto la galleria per uscire da casa in montagna, ma l'hai visto? Già l'hai visto, che venne il babbo siragliano, che erano i cuffaccati. In montagna è così, sarà bello, però è vero, se non si è organizzato, fai la fine del topo. Ma quelli che abitano lì ormai sanno già com'è e per cui non si preoccupano, capisci? Si mettono in condizione da poter vivere bene dentro e poi lì c'hanno il camminetto, c'hanno la legna, si fanno la provvista della legna, capito? Per cui da mangiare ce l'hanno, roba sana. E sono abituati al freddo loro, capito? Se non andiamo a guidare, una guida moriamo subito. Chi si sono abituati, è logico. La gente che è nata lì è abituata. Magari poi chi è andato a vivere lì già si è adattato, però adesso sono abituati, capito? Ma se andiamo in questi luoghi, moro subito, ma... Si era andato magari da giovane, no, ma oramai non fa più. Può darsi pure a letta tua, andando lì, l'aria buona ti fa crescere, ti fa risalare tutto perfetto. Mi si bollizzò su terra in due lì, e allora? A me non pensavi a nulla, né allo gaso, né allo freddo, né a mangiare, né a fare solira. Che io ne fai dire solira, E allora? No. La cucciata, pescate, chi, mi occupano, chi. Ma quando fa freddo, mi caldo, quando fa caldo, mi frecco. Già dopo vai in casa. Stavo di bimbo con lo freddo, gatta, boh. E allora, mi vedi la stufa dal duccio rocco. Mi faccio la stufetta minoretta sotto la scrivania, mi sono in casa di ribelli, a chi faceva ribelli congelati, e per la stufa accesa, mi. Però c'ho la stufa piccolina qua, sicuramente non entra tanto il calore, no, che no. Magari a tanti la entra, dopo che ci ha aggiunto per l'ambiente. Ma se no entra un po' questa cameretta, no, ma sento la stufetta e mi caldo così, i beni. A chi ha sempre prendo a piedi? Io faccio lì, li posso fare tutto il senso, a Giuseppe prendo a piedi addosso, no, ma a piedi era Giuseppe freddo, cazzo. E allora mi mangio la stufetta mia oretta sotto la scrivania, ma un'oretta e dopo i calci burro a gambera i calci, ma i piedi ce li ho presi perché dipende dalla circolazione del sangue, e per quello il tuo è un massetto, dipende sempre dalla circolazione. No, chissà che aperta ero entro, boh, chissà fa cosa, già entra, ma entra a tanto il calore, dai casi tutto bene l'ambiente, allora entra, no. Ma se no entra boh che niente, capito? È a pensare che l'altro invece la tricamera entra, però caccia la ridanco gli anni, capito? A chi si rompe troppo freddo, a chi ripiffa li risombe da ogni camera. Aspetta un attimo che mi buffa lì. Ettore non si è sentito, quel bandito. Bacchino! Sta mettere, pulendo i filucchi, sta pulendo, capito? Oggi si vede che ha tolto i filucchi e li sta pulendo, capito? E ancora non ha finito, attore deve essere ancora in giro in bicicletta. Ma chi il calcio, ma lo sangue un calcio, fuori Roma stessi, sì, sono tutto un blocco, insomma. Torre passeggero, non l'hai visto? È passato pure ieri vicino a casa tua. Stava guardando, non l'hai visto? È tutto un pezzo. Tutto che la palla, gli hanno preso, non li fa svenutare, lo prendo a chi c'è un pezzino. Siccome ha sempre freddo anche lui, allora esce in bicicletta, pedalando e si scalda, capito? E ha sempre gaggio, Edo. La cuffietta, pure la giurista, la cuffietta. Però l'uomo è caldo. Ovvero? E allora, Luca invece è ben di freddo. Ovvero? E allora, ma ripeti come c'è i pinguini. Ehi, you! Visto là, Johnny Mani! Johnny Mani! E chi è quello che stava parlando con te? Un pinguino! Chi è? Il pinguino che è qui vicino! Ti ho capito, eh! Un pinguino! Evidentemente non ha voglia di parlare oggi. Capire, ci vengo su vicino. Luca, ci sei, Luca Manicomio? Ma tu mi chiami Montanaro, no, non chissà sta frase. Tu lo stai offendendo, cazzo. Vai, che... Davvero? Vai, noi. Sta dormita ancora quello lì. Chetta. Chissà cosa è combinato, va. Secondo me è dormito. Prendi la faccia. Chi sono freddo, così che sei casenti. Abbassuta, Edo. E allora? Ma poi si ruba il bagnino. E sta facendo la pompata. per carità. Ma cosa c'è il portatile? No, perché? No, volevo sapere se c'avevi il portatile oppure è quello da, da base, là. E secondo te cosa c'ho? Ah, siccome non si ci riconosce, da portatile a quello fisso. Se rimane sempre fisso in questo livello, mi sembra che sono tutti e due uguali. Adesso sono nell'ingresso. Ah, quello a base c'hai? Il portatile, quello a base c'ha preso e l'ho coperto. Guardate, rimane più piena la radio, ecco, tutto lì. Più pesante rimane, là. Però, già è buona anche questa, dai. Questa rimane bassa, ma è pulita, dai. Perché sono nell'ingresso e l'antenna è verso il latte dolce. Ma sei col gommino, sì, oppure l'esterna c'hai? No, col gommino. Ho capito. Però è puntata verso il latte dolce, verso la zona sua, là. E beh, riprendi. Giorni Mari, cosa ti stai guardando la TV? Ehi, due donne che si stanno azzuffando. E te, per carità, gatta. Una bionda e un'altra bruna, ce la farei di Sirani. Ma che programma è? Canale 5. Davvero. Per carità. Le due contesse. Auti, buonasera. Ciao Vittorio, ben sentito. Le contesse. C'è la nuda contessa, Ghita. Ida rubato bagia il barbiere, mi sembra. Così l'abbiamo visto, da sempre se dici che è contessa. Ha un altro giro. Dimmi una cosa, come mai hai scritto in sardo quelle frasi di quel bambino? Me l'hanno mandato così. Attimo. Però è corretta quello che hai scritto, Non ho scritto niente io, quel bambino nudo che è morendo di freddo. Ah, pensavo l'avessi scritto tu. No, me l'hanno mandato così a me. E l'ho mandato a te. E è morendo di freddo sul vicino. Da minori lo fatti a pure vicino, tu non l'hai mai fatto. Ah, no, io non la giubbato mai. Turbo, ma una cosa te la posso dire? Vittorio, dici cosa devi dire? Ascolta, una curiosità. Ma tu come ti chiami su Facebook di cognome che ti provo a cercare? Buffo! Gufo o gufo? Gufo! Ufo! G-U-F-F-O! Ok, aspetta un attimo, provo a cercarti e poi ti chiedo l'amicizia. Chiedila pure a me. Guffa! Attento, gufo! Gufo tristo! Eia, gufa! C'è anche gufone! Tra qua c'è scritto Graziano Rufo o Uffo B. Aspetta che c'è il guffone. Giorni Mari, rispondi che c'è il guffa. Guarda, tra un po' sto uscendo. Dimmi dove sei che vengo che passo a trovarti, Vittorio, dove sei? Ah, io vieni tu che sono al Salesiani, ce la fai a venire. Ma i salesiani quali sono, rosso? Ma dove è il campo grande, lì, giusto? Dove c'è il... di fronte al bar Domenico, giusto? Quello lì è. È in pratica dove c'è il bar Sanna, là. Dove c'è il bar Sanna? piazza, non sono presente. Allora, ma stanno lì nella piazza. Ok, tu dove sei? Io infatti sono lì. Ah, nella piazza dove c'è Bassana di fronte, lì sei. Io sono lì. Dove c'è, in pratica c'è anche una scuola, la 10, già ce l'hai presente. Ah, ho capito, tanto devo uscire, adesso mi lavo, veloce, mi cambio e poi passo, dai. Ciao. Ok. Se vedo un ragazzo bello bello sono io, Eia, ok. Ma bello mi. Dove c'è la scuola lì? Quella scuola rossa. Degli alzati. Certo che stavo parlando così, ho detto. Dai. Va. Vittu. Lu. Stavi parlando, ma ti ho sentito sotto Graziano. Quando ti ho detto, ma bello mi, tu cosa hai detto? No, ho detto, quando vince, c'è da chi ti devi lavare, Peppa. Guarda, se mi trovi c'ho degli alzar bianchi e giubbotto militare. Ma se sei in piazza, io uso basta nella carrera, mi, no? So che in chi va, sticcate, che chi va in freddo, buro. Al limite mi porto alla radio e ti chiamo dopo, dai. Bravo, Che ti devo dire una cosa anche, dai, per quanto riguarda il mio lavoro. Ok, dai, allora ti aspetto. E mettiti 100 euro in tasca, mi pelo. Se mi rispondo io mi ripongo in busciacca, senza problemi. Ciao Mari. Dimmi tu, buonasera. Buonasera a lei, cos'è, com'è? Freddo c'è lui, freddo c'è, per carità. Sì, vabbè, dai, io la tosse comunque me la sto... ce l'ho un po' a colpi, dai. Poi mi sono fatto malato una signora, perché queste cose le faceva la buonema della mamma, che purtroppo non c'è più, questo limone, scaldato, no? Bollito, poi una volta che bollisce ci metti 2 cucchiai di miele in mezzo, lo giri, lo fai riposare e poi te lo bevi. Comunque lui, lei mi ha detto a prendere la cucchiaiata, ma io l'ho bevuto, ma diciamo che me l'ha calmato, Poi in più sto facendo l'aerosol, speriamo bene, comunque per domani non ce la faccio a ricoverarmi, l'8 febbraio. Ok, prima di tutto dimmi cosa hai cenato ieri notte. Allora, io ti ho mangiato la roba là, però non mi è piaciuta, sono sincero, quella cosa di pesce, no. No, non è che ne vado matto, a me se mi dai gamberi già li mangio, 4, 5, 6, anche 10, però roba così a me. Ma il brodo, la minestra l'hai mangiata? No, non è affatto minestra, l'ha cucinata così, ne ho messo un po' di pomodoro come avete detto voi, però l'ha mangiato così, pezzi grossi era, capito? E il resto se l'ha mangiato a pranzo, e diciamo un po' se l'ha buttato. Capito Giovanni? Non è che ce l'abbiamo mangiato, io l'ho solo assaggiato, un paio di pezzi di notte, ma non... la verità non mi è piaciuto più di tanto. Non è a tutti che piace, cioè c'è gente che gli piace, ma non è a tutti. Poi dipende anche il metodo come uno la fa, da. Ma evidentemente non l'hanno saputo fare, a mangiare così non va bene, no? Oh, non è che non va bene, però, strano però, Attore, non dare macchina, niente, ma fa la zuppa, oh no, grazie. A parecchia gente piace, infatti, allora sì, molte volte sento gente che sento zuppa, già c'è la gente che la fa, ma non è a tutti che piace, Oh, mi assento, 10 minuti, un quarto d'ora, arrivo subito. Eia, io devo andare in ufficio, Vittorio. Abbiamo detto che era, non mi piace, no. Oia. Che prendete? Ciao Marie. Che? Mi ascolti. Avanti. Buonasera, signor Gio Maria. Oh, tu sì, buonasera. Chi sei tu? Io ti sento, avevo il volume basso e non capivo chi era. Capito. Ma chi vestito? Atto! Vittorio. Ciao Bacchi, buonasera, sono Vittorio, ben sentito. Io, ciao Vittorio, buonasera, dove sei? Ehi. al Barzano, mi ha detto Luca si sta facendo la doccia, che vuole venire a trovarmi. Mi ha detto va bene, io sono vicino ad Balsano, sto aspettando. Dentro il Balsano stai il motolando? È perché sto aspettando a Luca. Ah, Luca, ho capito. Tacchi! Sì, è San Marino. Di bello. Buonasera. Perché a lei? Prima bombolo. Uno, buona. Forse mi sono sbagliato. Non ti sei sbagliato. Bacchi. Sono uscito fuori a prendere aria. Vittorio, dove sei? A Bassano, lei non mi ha sentito. Entro o fuori sei? Esci. Esci fuori. Sì, sono fuori. Comando stai? No, Vito, forse non mi sente Bacchi Vittorio a me. Sì, vai, sei al Bassano, io non lo so, dove è al Bassano. Dove sei Vito? Oh, ma aspetta, ma tu sei fuori dal Barsana, perché lì sei Bacchi, non ti vedo. Io sono davanti al Barsana, e tu dove sei? Mi aspetta, sto venendo io, perché sono tornato al Salesani e ecco sto uscendo, aspetta. Te la prendi vicino all'ombrello, giornali vicino al Salesiani, c'è che... Ma pigliate freddo siete, Bacchi? No, subito che se trovo a Luca, gli devo fare una cosa da guardarmi. Mi dici, ma che sono qua, mi? Adesso, ho messo la mano. Ah, io 10 minuti, 4 ore sono pronto, Okay. Ma profumati pure, Mi raccomando, bagno pure un rassetto. Meglio, Mario, sai, mi profumo sempre, se no non ha c'è gusto, capito? Sbarbato, capri tagliati. Devo essere ordinato, se no non mi vuole la mia ragazza. Giovanni, è così. Fai bene. Non sono bello, però almeno se dobbiamo essere, insomma, lavato, messo un po' in ordine, ecco, là. Chi è che non si lava? Penso che si lavino tutti. Cioè, sarebbe incomodo la faccia, già ce n'è acqua. Ah, io penso, mamma, e poi di l'altro non me ne ha fatti nuda, non sto dicendo degli altri, dico. Una persona deve essere anche... Certo, è chiaro che ognuno pensa a se stesso. Ma sono in gente che si lavano tutti, no? Ci mancherebbe, poi ognuno si vuole lavare, si lava, se no non si lava, a me non interessa. Era per dire, così. Vabbè, dai, io adesso mi vesto, veloce, e poi passo là, dai. Sì, adesso sono con Gio Maria. Tu chi sei? Con Marchisio. Ma che sono con Gio Maria? Gio Maria è ben lontano da Ivi. Ma chi? Sì, Gio Maria. Sono qua a prendere freddo. Saranno, vuoi prendere che fecca, toi? Vabbè, già sei giovani. Ma tu, Bacchi, non so che io. No, devo parlare con Luca, capito? Devo parlare con Luca. Per quello sono uscito. Vado a approfittare dell'occasione. Vabbè. Si può fare uno sforzo ogni tanto, vai. No, vado subito a casa, Subito al calduccio, si sta meglio. Va bene, Bacchi, va bene. Arrivato e... Coso? Vittorio. Vittorio è qua con me. Vittorio con me. Ah. Vai, ti raccomando, Solo il caffè però, No, Giovanni, aspettando Luca, poi prendiamo qualcosa, un caffè e ce l'abbiamo. A lungaggio. Va bene, Bacchi. Grazie. Luca. Vecchio. Ebbene, sei andato giù pure. In ufficio ero. Ah. Che devi aver uscito giù pure. E allora? Non saranno. A chi c'è meglio dell'altro, sì. Non puoi pigliare un freddo, come ti pigliare l'altro. No, che a me mi fa zimare un freddo. Appena mi fate male. Appena, abbraccia a tutti i baci. La caccia giovane, che vale lo sangue un gallo. Dai, sai vero un gallo, no? Anche la ragazza se la scuola. Sono Marchigio, sono con Luciano. Eia, dimmi, visto? Ho incontrato Marchigio. E dato te l'ha un cucumbaru. Ho un finocchietto, te l'ha portato da campagna. Non lo so quello. Non aveva finocchi in macchina. Glielo dovevi chiedere, una zucchina. Ce li ha sempre nel cofano, in boscate. Una banana. Ma non gli ha domandato, non lo sappia più io, Giomari. Ah, così è. E allora, vai, chi lo sa, quando lo vedi mi domandi, più tu. E allora? E Cardo c'è lì in strada, più tu. Cosa fa? Sarai tu cani. Ma tu sei in carriera, vuol dire non hai freddo. Giomari, così è. Ma io sono giovane, non so come ti attendo. È di la risangue, questi che ha risato il gallo, tu che sei freddolito. A posto di sangue faccio insulina, a posto di lo sangue, pillole, di tutti i razzi, è logico faccio freddo. Giovanni. Ma è di sono giovane, capito, si che è freddo non ha niente. Di bolle il sangue a quelle lì, capito? Non è come noi, l'abbiamo già freddo il sangue noi. Così che è andata a cagliare noi, anzi, noi cagliamo molto prima. Oh, a casa cagliami, sto con l'alba. vabbè. Come sa che ne è pura, freddo senz'altro mi sarà freddo, Però, sì, ma saranno. Manco bassogno. Ma manco barilea. Rimane su vicino, rimane a mangiare, ma andate a turrate presto a buro. Cazzo, ma è uscito a fare a giocare con la neve, sei uscito a rimanere a mangiare. No, all'ospizio che andate, ma è all'ospizio che andate. E poi devo passare alla brisco me. E poi mi sono tornato a casa. E cosa hai comprato da roppia, animali? Animali? Qualche cosetta che mi mancava, lo zucchero, lo malebreco da tuvieri ghili, le banane, i limoni, cassatelle là. E la brico cosa hai bigliato? Acqua, quelle bottiglie piccoline, tre casse me ne ho preso. Sono più maneggevoli, quelle bottigliette piccole. Bricciolino, fa la ciuffa. Acqua, le bottiglie piccole però, non quelle grandi, da un litro e mezzo. Prendo sempre quelle bottiglie piccole, le bottigliette. Ma lo finì, ma è la bricco meno. No, la bricco meno, all'Eurospin. Ma tu ci andati, si sono guardato la buona la bricco meno. E ecco ma cosa ti ha giusto, e tu hai la giubilatura e la bricco meno. Ecco ma cosa ti ha fatto questa domanda. No, io mi ha giubilato quattro sacchetti di bellet, dato che ero di passaggio. Ecco. Ho capito. Infatti, ma non più lei la bricco. Allora bisogna giocare un preso marino. No, già sono passato. Prima le rospie, poi datemi bambini di passaggio. Sono entrati in Livia a pigliare quattro sacchetti di belle. E niente. E una spazzola in acciaio mi ha preso anche, non l'ha già avuta l'altra, mi si via. E basta. Ho capito. bene, bene. Che è per la freccia le malamazzà. Anzi no, le malamazzà per la Rusori. Per la Rusori, di sera la bovina. L'usore se ne è andato, ma per la freccia. Ma poi se ne è andato l'usore, la fine. Aspetta. E lui sala io, per la Rusori, da che ci ho mangiato. Aspetta. Da un tratto, si è annuata. E intendiamo il tuo freschetto in sedia. Da poi mezz'ora cazzo te la devi. Boh! Già l'ho visto. Se intendiamo bene, freddo, quando se ne è andato questo raggio di sole, ha detto, boh, mi rubricori però se la prendi la Ianna. Sì, se no una volta c'era un minimo ghiacciati di neve che non si può ghiacciare. Ma vero, Quando fa freddo così conviene rimanere al calduccio in casa, pittù. Io vedo, vedo. Se sciafrati i gancaretti, di brutto però. Cos'è c'ha a pigliare freddo? Se non devo fare nulla non faccio io. Già non vi voglio uscire quando devo fare qualche cosa, specialmente che mi sia freddo. Figurati che esci uscire a far fuoco. Ma neanche per idea. Gli altri che mi muro va bene, tutti rimani ghiacciati ma chi non si risente mai. Ma Bacchino è già abituato al freddo, al freschetto. Tu ripiazzi l'ambiente tiepido, non caldo caldo, freschetto già gli piace. Vero Bacchi? Dimmi Grazia, cosa c'è che stai abbaiando? Non ce n'è freddo qua, c'è un caso, non si può parare, non si può parare, sono tutto sudato, tutta la ringa. È diverso da noi, e tu vai proprio lo zangu, noi vavemo in sulina, i rimeni a posto dello zangu, io e Gio Marino, che si è abituato lì all'orto, sempre in mezzo alla cosa fresca, e rimane fresco a... Ragione, così grazie, hai veramente ragione, tu vedi. Visto la Giomari, poi mi dici il no. Cos'è grazie? Che Bacchisio rimane tutto fresco. Mi pare che vada più freddo di lui Bacchisio. Sicuro, sicuro. Cazzo, grazie, ma la bufai di sì. Due là, già va la stufa, già c'è la stufa in campagna, e se la vai da lontano, basta più tranquillo, e rimane in casa, capito, miei? No, chiedo, a vai dalla stufa, dallo zocco, e mi ha dato con un colpo di zappita, dimmi lo tu, Bacchi. La stufa spendo, si caserà. Sicuro, Però i nonchi si casano un poco male. Un po' caldo. Grazie, se già andato, io faccio in ufficio piccolino, ma ci mettiamo una secondina. Anche tu, prima che diventi piccolina, la levi lì a... E poi non contrappeggio. A rubare che non la secchi, spingi un cannello e la bisticchiaggi subito. Si può cannare la pesca. Tipo bagna allora. E allora, vero Giovanni? Già è così. Vittorio, tu così fai? A me non mi pare proprio. Io mi sono freddo. Io ando, questo ieri non mi ha fatto nulla. Ma però vai con la canna alla pesca. Io ero buoni di... Bacchi, visto là! Ma io li pongo due piombi, fa contrappeso. Due piombi riesci ad abbiccare da 200 grammi l'uno. Ma Bacchi, ma in macchina, dentro macchina sì, o dentro bar sì? Siamo dentro e fuori bar. No, ho capito. Siamo metà dentro e metà fuori. Hai detto che fa freddo pura! Sentendo a Luca, dice che era venente, ma mi pare si è pigliato lo sonno. Ah, mamma mi pare Lucca e fatti da con qua, dottor. E a me mi pare proprio che sono migliato un sonno, mi pare non pare più. Ma gliel'ha detto fra un quarto d'ora, dai. 10 minuti, un quarto d'ora, ha detto, dai. Sono come solo, ragazzi, con un calabio. Ma che è peggio di poppasse, prima di Dio, ci dovrà poi rivenire a farmi. Luca, sei pezzo! Dai, sei pezzo, ponendo del cifriccio, no, un rossetto, sei ponendo a base. Sì, non è mica una femmina, no! No, sa di che è una femmina! Beh, Luca è femmina, non è maschio, mi! Ma che è la maschio, allora, no? Di vero, ma chi è femmina, Luca? Luca, infatti, l'altra cosa è Luca, è femmina. Se no è caduto Lucco. E tu? Ma c'è Dio, mia prega, Feli. Cos'è, c'ho Mario, non ti ho sentito bene. Ah, ma c'è Dio, caduto bene, Lucca. Ah, boh, stai in gioco. Ma penso che mi metto un rito, ma... non nasce. E tu vieni vicino al Barsano, ma... a me mi pare che... mi pare è scindato. Mi pare in pari brutti. Aspetta che già sta avvenendo, che Luca ci mette molto a truccarsi. Ehi, speriamo bene che venga, perché se no è partito, se ne andiamo in furgone. Si deve mettere il cappello, si deve fare il neofinto, le ciglie finte, non mica c'è così. Ma poi Luca di che zona è? Non ho capito. Mi pare di Santa Maria di Pisa, no? No, Luca è straniero, non è di qua. È vostra nazione, di Dio, grazie. È di vostra nazione. È un extraterrestre. Quando lo vedi, te ne renderai conto. Non te ne innamorare, no. Di Luca, non te ne innamorare, mi capito, vai. Ha detto un bacchino che con un freddo mi pare io non resiste più un bacchino. A tratti sta arrivando fitto, Sì, che cosa mi vuoi fare? Tu vai bene a bacchino. Sì, freddo, freddo, Maria, va, mi pare, ma vivo, lascia via il luce Luca, l'altro momento sono dopo. Ah, tu sei a fondo scala, mentre il Vittorio è basso, a due tacchetti esce. No, è a fianco a me, Vittorio. Graziale dovrebbe sentire più bene di me, perché è libero a quella zona, vero Graziale, senti bene il suo nome? Li sento bene tutti e due, a voglia. Ma anche quando entra Luca lo sento bene, via già c'è a me, no? Mi senti, grazie. Ma infatti, invece io rimango chiuso perché sono un mezzo di palazzi, capito? Ecco perché arriva a tratti. Però Bacchino arriva bene, Invece Vittorio lo sento a tratti. E Vittorio l'apparato suo sta andando un po' a rotoli, perché tarda l'eccezione anche. Ah, così è Bacchi. La recessione non è subito, non è istantanea, aspetta un po'. Bene, che apparato c'ha coso Vittorio? Lo sentivo sempre bene, oggi lo sento a tratti, forse magari perché è zona un po' buia, dai. Le batterie deve essere scaricate le batterie, è più debole. No, vabbè, no, perché adesso quello di Bagarri, Gio Marì, io ritardo un pochino perché deve essere qui di ritorno. Occupa a me la linea e ci sono i punifici dappertutto. Vabbè, ma chi si avvicina a te? Così che da te a lui c'è un abisso, Così che, ma chi si arriva in fondo scala? Mentre tu arrivi a due tacchette, massimo tre, e ti sento a tratti, capito? Ecco perché, a pensare che, vabbè, bisogna anche vedere la fatta dell'uscita, dai, quanto è l'uscita tua e quanto è l'uscita di Bacchisio. E poi a pensare che avete apparecchiature molto forti, io ho quelle da 10 km, ma pure la giù bagaglio, 50 euro, ma però... Però qualche volta già può capitare. Ma non ti credi che quelle macchine costano di più, no? Quindi cosa dimmi? Signora Bacchi. Questo è l'uomo, quello che a casa costa molto di più. Capito? No, il discorso 500.000 fatta di Vittorio, non è molto. 500.000 fatta di uscita. Grazie. Ehi, no, il mio l'ho pagato poco, questo che c'ho. Non l'ho pagato molto. Grazie. Ah! Quanto in dollari? Questo mi sembra che l'abbiamo pagato 36 euro, una cosa del genere. Ma sono buoni quelli lì, Sì, sono buoni. Ma che l'altro c'hai, no? E l'altro l'avevo pagato ancora di meno. Poi un altro l'avevo venduto e l'avevo pagato di meno, il Boy Fenghi. E quello nero, quello l'ho venduto, quello non ce l'ho più, c'ho l'altro, non è questo però con la batteria normale. C'hai il GT5 pure c'hai tu? C'ho quello il 3 e GT5. Ecco, lo stai usando il 5 adesso, no? Stai usando il 3 adesso. No, sempre il 3, quello là l'ho messo a una parte. No, ho capito. Ma va bene anche l'altro, andava pure l'altro. Solo che batteria ne ho stesso una di quell'altro. E una ne ho di questo. Quello che avevo venduto ne aveva due batterie. E vabbè, gli andava così. Ehi, andava bene, ma io avevo preso due batterie, quelli grandi però. Poi io avevo da 3.800, sì, 2.800, non so se era 3.800 o 2.800. Due batterie, batteria normale non me ne hanno date, ho ordinato solo due batterie grandi, capito? Non l'ho ordinata, quella che avevo ordinato era per il Boy Fenghi, però l'ho pensato e ho dato anche la batteria, perché non ci andava bene né a questo né all'altro che c'ho. L'attacco erano diversi. Ma che giunto è Luca? Sì, è qua Luca. Sei giunto. Visto hai visto non è una donna. Giovanni. dai. Ci sono sentito di macchino, io ritardo un pochettino. Grazie, riprendi. È venuto il Luca. Sì, è qua in questo momento, sto parlando con Bacchisio. È truccato, Sì, appena. Hai visto, dai un bacetto. Grazie. Sono qua all'agraria, mi sentite, sì? Sì, ti sentiamo. Già andavo, Sto andando al monte, Monte Rosello. È a Farosa al Monte Rosello. Io sono del monte, Vittù, non abito qua, no. Qui abita la mia ragazza, capito? Eia. Io sono montagnino, capito? Graziano! Dimmi! Mi ascolti, sono qua la Madonnina. Sì che ti ascolto, a voglia. Già va bene, dai. Chiaro e forte, ma è macchina, sì. E allora, è macchina? Sì, ti sento bene. Chiamali! Mi stai facendo tutto, abbassami le voci. Vabbè, io non sono stato vicino a casa tua, dai. A fianco, dai, dall'altra parte della strada. Mi stai sfasciando tutto. Anche tu arrivi qua fortissimo, dai. Va bene, cazzo. Io sono volantemino pure, amico, perché puoi mangiare, però arrivi bene. Vittorio lo sento un po' basso, forse c'ha la batteria mezzo scarica. Scusate, avrà la batteria scarica, boh. Avanti Vittorio! Domani io non lo sento più a Vittorio. Vittorio si è perso la bufera, a piedi. Graziano, mi senti? Marco Graziano, mi senti, Giovanni, sono il tuo, boh. Io ti sento. Guarda che io ti sento. Eia, eia. E Bacchisi a casa se n'è andato. Luca, ti senti? Ciao Mari, non mi intendi più. Cosa c'hai, gambrottolare? Ma chi si è andato se ne? No, c'ero io. No, mi sento sbarzato perché adesso io sono il diario. E nulla, però non so neanche se è andata al Barzano, forse è trovata a casa sua, non lo so. Ah, si starà facendo il cicchetto. Attacca. C'era Luca e Bacchi, ci siamo fatti una chiacchierata, ci siamo conosciuti e nulla. Lo siamo incontrati a questo punto. E il bacetto dato te l'ha. Sorry, what? Un bacetto rosa. Se vi siete incontrati, il primo incontro, vero Giomari? Giomari! Aspetta! Giomari, insieme è crollato! Ha detto aspetta! Cos'è grazia? Fa così! E allora, tu tra di mattanelli mi rugava a dritta e a sinistra. Io esagerato. Qualche volta, grazia, fatti trovare anche tu come ci siamo incontrati e Luca e Bacchisio. E John Maria, ci avete tempo, qualche giorno, boh, non è che sto dicendo l'indomani, no. Qualche giorno, se ce la fate, ci incontriamo. Qualche giorno già ci incontriamo. Io sono a piedi però, A piedi è un problema. Ti fai pigliare da Luca, che la macchina vira tanto gli abbagaedo. Ma Luca non c'è buono a guidare, è pericoloso. Ma già si è visto, perché mi sembra guida un po' spericolato. E allora? Si crede all'autoscontro lui? Sì, mi non posso immaginare. Con Giomaria si crede, perché Giomaria cammina come le lumache. Sì, mi c'è Bacchisio che mi ha fatto vedere la sua apparecchiatura, c'è il PMR che già è bello, si illumina, è più bello, vabbè. No, non dipende sempre se è bello o brutto, dipende sempre come prende. E che Giomaria lo sentivo un po' in ritardo, perché quello di Bacchisio funzionava bene, invece a Giomaria lo sentivo no. Dipende dal tipo di radiolina, capito? Ce ne sono più potenti, meno potenti, più colorate, meno colorate. Ci sono tanti che sono belli, là. L'importante è che funziona bene. Sì, per carità, mica quello è solo l'importante, funzioni bene. A me non mi ha fatto nulla, né che tipo di funzioni c'ha, a me l'importante è che funzioni bene e riceva molto bene. Che prenda anche la linea, che abbia gli ultimi chilometri, vabbè, questo che ho io, 10 chilometri, cosa vuoi che ne siano? Chi su chi va, mi pare minimo 200 chilometri, minimo di biglia, ne chissi. E allora, col mio puoi parlare con tutto il mondo, con questo che sto parlando con te. No, vabbè anche il mio, per carità. Mi diglielo, Bacchi, se sei in ascolto. Ovvero? Aspetta che c'è davvero. Eia, anche con gli extraterrestri il mio puoi parlare. Davvero, diglielo tu. Hey, you. Visto l'hai. E visto. Il mio funziona dappertutto. Su Marte, sulla Luna, su Venere, dappertutto. È galattico. Ehi, a te credo. Lui l'altro me, quando ci siamo incontrati con Luca ci stavamo facendo due chiacchiere, dici apparecchiature, scannavi su me, si è spaventato, pensavo un giocattolino, ma non è un giocattolino, che è una apparecchiatura che va giù e gli è buona, 50 euro, pensa un po' tu cosa è. Pensa che l'altro giorno stavo modulando con un topo marziano. Oh, davvero sì. Oia! Ehi, Javi, diglielo tu, oia! No, si parlare con questa gentaglia, non si parlare con questa gentaglia. Era un topo marziano del passato. Mi sembra che era egiziano anche quel topo. E si assomigliava a un topo cagnolino. Poi a grazia che hanno visto Luca, mamma mia, chi si uccane? Non penso Vittorio, no? Che hanno visto, e tu sei un Vittorio, detto cavolo, sempre più piccolo, non te ne dimostro neanche a te 16, te ne dimostro 13, che cavolo quanto sei piccolo. Ah, lui ha detto a te che eri piccolo. Perché mi ha visto quando è venuto, non sembrava neanche che ero, detto quando sono io Vittorio, ho detto caspita, non te ne dimostro neanche 16 anni, sembra che ne hai 12 o 13. E visto lei quanto è vecchio lui? No, non mi sembra neanche a me vecchio Luca, sembra giovane dalla vista, è che dalla barba mi sembra un po' vecchietto, ma non è che sia proprio vecchio, io gliene dimostro, mi sembra minimo 52 o 35, perché è un bel giovane Luca, si è visto anche dalla faccia. È un barbone. Adesso è così con la barba perché stava facendo a Babbo Natale, capito? Ancora non ce l'ha fatta la barba, perché deve fare il Befano anche. Dall'altra parte ce l'ha tagliata, in certi punti non ce l'ha tagliata. Ed era bello coperto mio Girucca, che se no si pigliava un maranno. Quello lì è un barbone. Copiato l'hai, l'amico che ti sta dicendo che era un barbone. Mino! Ciao Mari! Quello è un barbone, Luca è un barbone. Gio Maria, ma caduto sì. Boh, Gio Maria deve essere in ufficio. Giù è Gio Maria, che fino a poco fa quando ci siamo incontrati a Bacchisio per primi, ho detto Bacchisio, ma dove, in che punto sei Vito? E ho detto, vicino al Barsana, andate una vita. Che lo vedevo con l'apparecchiatura e ho detto, mi qui sei Bacchisio, vedi? Guarda che ti vedi tre. Aspetta un attimo. E tu, grazie a cosa sei venuto in sciumamento? Scusate la cadrea, subito chiuso che mi devo fare l'insulina. E beh, fai bene. Pacarità, mamma mia. Ehi, fra un poco, che ore sono adesso? Allora, esattamente sono le 19.34, a che ora devo fare l'insulina? Alle 8 meno un quarto, dai, meno 10. E diciamo a quell'ora lì dovresti farla, no? Eia! Ma cosa sei? Da medico sei, grazie. Eia! Faccio 4 insuline! Caipita! No, per io non lo so, infatti dal primo giorno me ne sono accorto che dovevi fare insulina, ha già detto il minimo grattone diabetico. Eia, sono tutto da riciclare. Ma futtidini, ormai molta gente è così, grazie a futtidini, dove che ti voti a io non ti posso fare nulla, l'insulina devi fare per forza, che se no crolli. Per forza, ma 1.100 euro e siamo a posto. C'è un mio amico che ogni mattina si lava di insulina, siamo dalla mattina alla sera si lava, poveraccio. Io ne faccio 4, una la mattina prima di pranzo, una prima di cena e una la notte. Chi cacchio, ma una rottura di scatole proprio me. Ma vabbè, ormai quando sei diabetico non ci vuoi fare. Purtroppo la vita è così. Bisogna farla, se non si fa ce ne andiamo al creatore. E beh, fai forza. E dunque siamo obbligati a farla. E beh, siete obbligati sì a farla. A chi cosa vuoi? Sotto la tomba di voi buoni. Eh no, chi ce lo daremo a più tardi possibili. Vi pensi grazie, ti lo dico io, vi pensi quando sei a vecchio, quando minimo vai, minimo 89 anni, mi pensa che mia nonna c'ha gli Alzheimer, ne ha 82, che minimo ancora già non durerà ancora, che abbia gli hai vecchio, 82 anni gli hai vecchia. Ehi, c'è gente a 80 anni che se li vedi non li dimostrano, sono belli arzilli, anche a 90 anni. Ti prende uno dalla vita che ha fatto, capito? E se sei sano, stai bene, perché io conosco gente che ha più di 90 anni e sono belli arzilli e pippardelli e guidano anche la macchina. Ma sui 600 anni mi sembra l'avevo letto sulla Nuova Sardegna, ma proprio vero, c'erano questi due vecchi che hanno compiuto proprio, erano proprio, mi sembra gemelli, erano da maschio e femmina, mi sembra 100 anni avevano compiuto questi qua, nella Nuova Sardegna c'era scritto, ha detto cazzo sei tu, ho detto mica un bambino. Mi ricevete cambio, mi ricevete. Aspetti. Qui il tempo raga è un po'... Non arriva a quell'età lì, c'è molta gente che ne arriva a 93, a 92, 82 oppure 85, boh, da nisogo. Qua il tempo oggi è un po' la merda, speriamo che non nevichi. E beh, entro io raga, non parlate più con me. Beh grazie, adesso lasciati, ti faccio fare lì sui, dai, se tutto va bene ci risentiamo a domani, già. Buona giornata. Non so nemmeno come ho fatto. Ehi, ciao, a domani, salutone, chi c'è? A domani se coincide, ciao a tutti. Ciao. C'è un po', boh, il tempo un po' così, però vediamo se domani migliora oppure si rimane così. Forse anche con il tempo, no, che influisce sulle radio, non lo so. Comunque, se mi ricevete, datemi conferma. Se mi ricevete bene, se mi ricevete male. Comunque, ditemelo.